Allora, riprendo il discorso sul libro di Raymond Roth, I cercatori di Dio, e che appunto porta le idee di Jung nell'ambito del cristianesimo, come la psicologia può vedere l'evoluzione del cristianesimo. Le idee principali del cristianesimo, dice il testo, dice Roth, o il contenuto del Corano islamico, costituiscono degli esempi di come a un certo punto uno spirito del tempo si cristallizza. Infatti col tempo queste idee invecchiano e quindi non corrispondono più alla reale situazione del collettivo e diventano pertanto pregiudizi. Vediamo per esempio l'esempio: andate, moltiplicatevi, o andate, dominate sui pesci e sugli esseri. Ora, capisci, prendere queste frasi e tradurle nella cosa di oggi vuol dire portarsi all'autodistruzione. Allora, erano pochi uomini e problemi di ecologia non ce n'erano, e problemi di sovrappopolazione neppure. Quindi ogni religione nasce in un periodo storico e certe frasi vanno bene in quel periodo lì, non possono andare bene dopo. Se le manteniamo ferme diventa dei pregiudizi, tanto per dire. Allora, quando le idee invecchiano, così come quando ci creiamo dei pregiudizi personali, così come nell'inconscio individuale produce dei sogni, l'inconscio collettivo produce delle visioni dei mistici, che sono diverse da quelle dell'ortodossia. Ecco, e dice infatti, a questo punto emergono nell'inconscio collettivo, in determinate persone, i mistici della cultura del tempo, idee compensatrici di questo Zeitgeist. Compensatrici si intende idee che completano, che rendono integro, completo il pensiero, anziché un pensiero separato, un pensiero scisso, no? E che quindi queste le idee dei mistici ci premono in una direzione di un mutamento della coscienza collettiva che si è sclerotizzata nei dogmi. Allora, abbiamo già parlato di come Jung, per poter interpretare questi messaggi dei mistici, faccia ricorso al metodo dell'amplificazione, cioè il metodo che vuol dire cercare motivi paralleli tratti dal patrimonio culturale della mitologia, un po' di tutto il mondo, al fine di distillare il significato simbolico di questi messaggi. A un certo punto il significato diventa chiaro e diventa verbalizzabile. E allora che cosa succede? Attraverso questo sforzo l'inconscio collettivo ha portato alla luce un significato proveniente da un sapere profondo, un sapere preconscio. Jung parla di preconscio non in senso freudiano, ma di prima della conoscenza. Non è una conoscenza repressa, ma è una conoscenza che viene prima. Cioè, Jung ritiene che esista appunto un'intelligenza innata nelle persone, quello che Paracelso chiama la luce della natura, la luce della terra, insomma, no? Che c'è già questa luce dentro l'essere umano e che l'essere umano ha bisogno di saperla ascoltare. Adesso affrontiamo un tema più interessante, che è quello, che è questo: come lo gnosticismo, che è dei primi secoli del cristianesimo, ha costituito da subito una compensazione delle idee che si stavano cristallizzando attraverso la dottrina dei padri della Chiesa. Ecco. Vediamo cos'erano gli gnostici. Gli gnostici erano cristiani, del primo e secondo secolo, che dettero origine a una corrente antagonista rispetto all'insegnamento appunto dogmatico dei padri della Chiesa. Un movimento più tardi bollato come eresia. Jung non si occupò a fondo di queste idee perché erano poco c'erano pochissimi documenti fino allora. Soltanto nel 1945, nella località di Nag Hammadi, Alto Egitto, furono scoperti una cinquantina di manoscritti originali gnostici, e da allora abbiamo avuto la possibilità di conoscere più a fondo questo tipo di pensiero. Allora, vedremo che appunto le idee gnostiche, represse nel corso della storia millenaria del cristianesimo, sono sempre tornate alla superficie, come di notte vengono alla superficie determinati motivi attraverso i sogni. Vediamo quali erano queste idee gnostiche. Allora, Per comprendere le diagnostiche e vedere le loro caratteri e novità, bisogna prima analizzare bene qual è lo spirito dei padri della Chiesa, qual è lo Zeitgeist dei padri della Chiesa, cioè l'insegnamento loro, no? Allora, il concetto fondamentale è che Dio è una trinità superiore, esclusivamente spirituale e maschile. Padre, maschio, Figlio, maschio, Spirito Santo, maschio, tutti e tre trascendenti. Questa trinità superiore è orizzontale. Non c'è, quindi non c'è verticalità. Sono Padre, Figlio, Spirito Santo, orizzontali, tutti superiori. Gesù, figlio di Dio, Gesù Cristo, figlio di Dio, ha avuto la rivelazione. Quindi, una sola volta è arrivata la rivelazione, dall'alto verso il basso. L'essere umano che compito ha? Di recettore di questa rivelazione. All'essere umano si chiede la fede, non di la fede nella rivelazione, non l'attività esplorativa di conoscenza di Dio autonoma. Anzi, la ricerca della conoscenza di Dio, no? Lo spirito esplorativo che c'è dentro ogni essere umano, è visto male. È visto bene chi si affida alle parole precise di quello che viene detto dalla Chiesa e dai suoi insegnamenti attraverso la rivelazione. Allora, da quello che stiamo dicendo, Dio viene definito dai padri della Chiesa una volta per tutte, per l'eternità in modo immutabile, non suscettibile di cambiamento. Bene, adesso vediamo come invece il pensiero gnostico costituisca una compensazione, un'integrazione, un arricchimento di questa visione. La loro prima idea sostiene che la divinità corrisponde a un Dio che è padre e madre, cioè maschile e femminile, ad unione di cielo e terra, di spirito e di istinto, in cui, nota bene, l'essere umano esplica una funzione di mediazione tra questi due opposti. La divinità gnostica rappresenta più un'unità duale verticale che orizzontale, padre in alto cielo, madre terra in basso, in mezzo l'uomo. Qual è il significato della Trinità creata in questo modo, vista così? Che per gli gnostici ogni essere umano è potenzialmente in grado di ricevere la rivelazione da questa divinità padre-madre, che scorre dal basso, dalla madre, cioè dallo spirito della terra, verso l'alto, che è lo spirito del cielo o del padre. L'essere umano prende così parte attiva nel trasferire questa conoscenza dalla dea terrena nell'ambito superiore. In questo modo avviene una continua trasformazione dell'idea di Dio. L'idea di Dio è dinamica. Lo Spirito Santo. Perché è dinamica? Perché è in continua costruzione. E l'uomo è parte di questa costruzione. Che cosa c'è di importante qui? C'è l'importante che gli gnostici riconoscevano la capacità umana di meditare sull'immagine divina e si sforzavano perciò di conseguire la conoscenza di Dio attraverso una conoscenza di se stessi il più completa possibile. Conosci te stesso. Conosci la scintilla divina che c'è dentro di te e conoscerai Dio. Tu sei intermedio tra terra e cielo. Quindi riconoscevano l'istinto esplorativo introverso, la capacità meditativa individuale di ciascun essere umano. E su questo la Chiesa non la riconosce. La Chiesa ritiene che gli esseri umani devono essere ammaestrati, educati per perché se no, non dovrebbero neppure leggere per conto loro il Vangelo. Cioè, fino a po' di tempo fa, se non c'era un sacerdote, non era lecito che si leggesse il Vangelo in un gruppo di persone, perché si riteneva che senza il magistero della Chiesa le persone, tutto sommato, non capissero un granché di queste cose. Ci voleva quindi la rivelazione, che veniva dall'alto, veniva attraverso il magistero di tutti dei sacerdoti, della Chiesa e così via. L'idea gnostica, come vedi, è un'idea del tutto opposta, cioè che l'essere umano abbia dentro di sé questa conoscenza, quindi che emerge dal basso verso l'alto. Dunque, mentre i padri della Chiesa credevano in una verità metafisica rivelata un'unica volta, i cristiani gnostici si preoccupavano di costruire dentro se stessi, per mezzo appunto della meditazione introversa, un'immagine individuale di Dio, cioè ognuno dava il suo contributo, e conseguire in tal modo la gnosi, che vuol dire conoscenza piena, cioè la conoscenza di se stessi e dell'immagine divina presente in modo latente in ogni essere umano. Allora è chiaro che questo sforzo individuale sta in forte contrapposizione nei confronti del dogma promosso dai padri della Chiesa. Ricordiamoci che una delle discipline che viene insegnata alla facoltà di teologia è teologia dogmatica, che dice lunga su questo tema. Riprendiamo in schema. Allora, lo Zeitgeist cristiano è la visione compensatrice degli gnostici. Dunque, lo Zeitgeist cristiano è: l'immagine divina consiste in una trinità superiore, maschile, Padre, Figlio, Spirito Santo. Il Cristo, in quanto figlio di Dio, ha ricevuto un'unica rivelazione che viene dall'alto verso il basso e che viene resa disponibile agli esseri umani una volta per tutte. L'essere umano la riceve passivamente, l'immagine di Dio è definita per sempre, senza possibilità di cambiamento. Vediamo invece la compensazione degli gnostici. La divinità è un Dio padre e madre, cielo e terra, spirito, materia, istinto e spirito, con l'essere umano che è nel ruolo di mediatore. Abbiamo quindi una trinità verticale. Ogni essere umano è potenzialmente in grado di ricevere la rivelazione attraverso la meditazione. Una rivelazione che scorre dal basso, dalla madre, cioè dallo spirito, dalla divinità terrestre, verso l'alto, verso il Padre. L'essere umano quindi prende attivamente parte a questo processo per mezzo della meditazione e esplorazione introvertita. In questo modo l'immagine di Dio non è costante, ma si modifica. Okay. Se andiamo a vedere l'origine di questa visione della Trinità gnostica, lo troviamo nella Trinità egizia, di cui però non possiamo parlare